Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buone nuove dalla ricerca. L'Istituto Tumori della Romagna, in collaborazione con il Centro Methodist di Houston, ha realizzato in laboratorio una nuova molecola nanotecnologica potenzialmente efficace sul microambiente tumorale. Ne parliamo oggi con il dottor Tony Ibrahim. Buongiorno dottore. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Direttore del Centro di Osteoncologia Tumori Rari dell'Istituto Tumori della Romagna. Dottor Ibrahim, questa scoperta fa parte di un filone di ricerca molto interessante sul microambiente tumorale. Partiamo da qui. Perché questo interesse nei confronti del microambiente tumorale? Perché abbiamo capito negli ultimi anni che la cellula tumorale, per poter sopravvivere e purtroppo sconfiggere il corpo, utilizza il microambiente per i suoi fini. Per cui un obiettivo importante è quello di decifrare il linguaggio che usa la cellula tumorale con quello che c'è attorno a sé per poter sopravvivere. Decifrare dal punto di vista molecolare ci ha aiutato per poter mirare meglio, per dominare il tumore. Dottor Ibrahim, in futuro quali concreti benefici terapeutici porterà la vostra scoperta? Allora, prima di tutto, dopo diversi anni anche di studio del microambiente e soprattutto di migliorare le modalità tecnologiche di studio del microambiente tumorale, passando da tecniche di 2D a 3D, cioè tridimensionale, ci ha permesso di decifrare meglio quello che dicevamo prima, la lingua che utilizza il tumore con il microambiente, e ci ha permesso di identificare alcune molecole che li usa il tumore, soprattutto quello più aggressivo. Abbiamo iniziato con il tumore della mammella e stiamo continuando con altri tumori come il sarcoma ed altri. Una di queste molecole che abbiamo identificato nei modelli tridimensionali, abbiamo provato di associarla a dei trattamenti vecchi come la chemioterapia, ma in formulazioni nanotecnologiche, e queste formulazioni ci permettono da una parte di utilizzare meno quantità di chemioterapia e così meno effetti collaterali nel paziente, e dall'altra parte permette di fare arrivare con più facilità il chemioterapico nell'ambiente tumorale. Ma abbiamo associato in questa formulazione nanotecnologica anche un anticorpo contro la molecola del microambiente, e questo per potenziare ulteriormente l'effetto antitumorale mirato nel tumore con meno effetti collaterali. Dottore, la ringrazio per essere stato con noi. Buona ricerca, buon lavoro. A presto allora. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata. E per oggi è tutto. Vi aspetto come sempre domani mattina dopo il GR delle 6 per iniziare insieme la giornata. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.